Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Saluta Drago, facciamo in fretta, saluta, perché oggi ciao. È venerdì, giornata corta, si fa in fretta. Dai, venerdì, il più bel giorno della settimana, Drago. Siamo finalmente liberi da quella malinconia oggettiva da sabato del villaggio leopardiano. Anzi, le aspettative il venerdì sono ancora tutte belle intatte. Vabbè, però se ragioni così, il venerdì farà presto diventare un venerdì del villaggio. Ma no, perché? Eh sì, perché comincerai a pensare al venerdì a partire dal giovedì. E quindi poco per volta il giovedì prenderà il posto del venerdì. E così via fino al cortocircuito finale. E questo cos'è? È il cortocircuito finale, mi sa. Ma è tutto buio adesso, come facciamo a continuare? Dai, siamo alla radio, chi se ne frega della luce? Sì, vabbè. Allora, venerdì, altro che il giorno, cosa dicevi tu? Il giorno del venerdì del villaggio, sta delle zitto, aspettative. Tu non vedo più niente. Venerdì, K, è il giorno della penitenza per noi cattolici. Non si mangia la carne, ma ci si abbuffa di pesce, almeno. Bisogna dire che questa usanza si può sentire solo in certe trattorie dove entri e sai che è venerdì perché c'è la tanfazza di pesciazza. Tito, dai, bravo, Tito. Dai, ha sentito la tanfazza di pesciazza anche tu, scusa, certo. Si è agitato. Beh, comunque facciamo bene a parlare di pesciazza e di non mangiare carne o di mangiare meno, perché siamo sul pezzo. Infatti dagli Stati Uniti arrivano due notizie interessanti sul binomio cibo-spazzatura-bambini. Un binomio perfetto per chi vende il cibo-spazzatura. Beh, è un trinomio, perché cibo-spazzatura-bambini. No. Va bene, è un trinomio in realtà, è un binomio perfetto per chi vende il cibo spazzatura e un po' meno perfetto per chi diventa obeso a 4 anni e poi non guarisce più e poi insomma e pesa infarto. Sui conti pubblici, certo. Perché parliamoci chiaro, Drago, i governi vogliono popolazioni magre perché i magri si ammalano di meno e costano di meno allo Stato. Vabbè, però le catene fast food degli Stati Uniti infatti hanno speso 4 miliardi e 200 milioni di dollari nel 2009 in campagne pubblicitarie indirizzate proprio solo ai bambini. Vabbè, quelli della Yale University hanno detto il web, le TV, le offerte legate a tutti questi alimenti che non rientrano nelle tabelle nutrizionali del governo spingono i bambini a consumare questo genere di cibo. E anche per dire, il sito della McDonald's ogni giorno, ogni mese anzi, si connettono 365.000 ragazzi sotto i 12 anni. Questo ha preoccupato non poco Obama e i suoi. Sì, e poi fanno anche le feste di compleanno al fast food. Comunque un po' di iniziative contro l'abuso di fast e junk food sono già partite. Infatti nei diner e nei fast food di San Francisco sarà vietato fare regali ai bambini insieme al cibo, cosa che avveniva regolarmente ad esempio con i famigerati Happy Meal. Bello, l'Happy Meal, scusa, tolgono l'Happy Meal. Certo, perché i bambini in realtà non vogliono il cibo, vogliono un regalino, quindi hanno pensato bene di togliere il regalino. Che senso ha? Vietano il regalino e lasciano vendere il cibo? Sì. Ma il regalino mica fa male, il cibo Ma non facevano meglio a vietare il cibo e lasciare il regalino? Cambiavano gestione, negozio, ragione sociale, tutto. E ora bambini, ricreazione! Sciorbibe! Sciorbibe! Cosa dici, capo? Sciorbibe! Ma sei impazzito? Il gioco col Tito e il Tuto, almeno io me ne occupo. La ricreazione è venerdì, siamo vicino al weekend. Aspetta un attimo, è ancora lunga la strada per il weekend, altro che vacanza. È lunga, dai, 5 minuti ed è finita, Tito, 5 minuti! Ma prima c'è la solita intervistina con il bambino Albertuccio, eccolo qua. Ciao, raga! Ciao, Albertuccio! Allora, oggi stai bene? Come mai stai bene? Mi vedi bene? Ti vedo bene. L'amore. Cosa? L'amore. È appena arrivata una nuova signorina. È che mi piace. Bene, ed è gentile con te. Sì, è gentile. Ma il fatto importante è che è una bella gnocca. Ma Alberto, ma cosa dici? Lo so, sono troppo piccolo per lei. Appunto. O meglio, è lei che è troppo grande per me. Sì, vabbè, ma guardi da dove vuoi, non cambia la sostanza, parliamo d'altro. Non posso mica farmi vedere in giro con una maggiorenne, no? Ma come? Se no gli altri cosa dicono? Mi vergogno, no? Sì, chissà lei. E com'è sta maestrina, sta signorina, come si chiama? Il nome non lo so ancora. Però è alta, è bella prosperosa, Sì. È una specie di tonno, no? Come? Ma avrete presente un tonno intero, ancora vivo, che guizza. No, non l'ho mai visto, sinceramente. Io l'ho visto nei documentari, dal vivo. Sì. È grande, grandissimo. e quando lo pescano si agita tutto. Sì, no? Vabbè, sì. Però Alberto, questa descrizione denota una grave mancanza di rispetto verso questa maestrina, signorina. Insomma. Ma quale mancanza di rispetto? Non ha un nome, dici, con un tono. A me piace proprio perché sembra un tono, se no ci sono quelle che arrivano lì tutte pelle e ossa, no? Tipo indossatrici. Con le ossicine, le gambucce, ma lei non mi piacciono mica, A me datemi i toni, Ma il resto ci penso io. Vabbè, lasciamo perdere, dai, sei troppo piccolo, bambino Albertuccia, sei piccolo, quindi è inutile perdere tempo con la maestrina, il tono. Ti devono piacere le bambine della tua età, infatti, quelle devi guardare, non i toni. Allora, prima di tutto Albertuccia lo dici a tuo nipote. Ho detto Albertuccia. Ecco. Comunque, ma tu le hai viste quelle della mia età? Le bambine della mia età? Metti a confronto con la maestrina. Che è una bella poppona. Ma no, ma Alberto, ma sei un maleducato. Poppona, sì. Ma insomma. Ma alla fine è solo per il fatto che è maggiorenne. Se fosse minorenne, i problemi non ce ne sarebbero. Sì, molta gente ha il problema inverso, ma comunque è sempre un problema insormontabile. Maggiorenni e minorenni non possono andare insieme. Insomma, sono due specie diverse, due razze diverse. Non possono, diciamo, entrare in contatto. Esatto. Ecco. Sì, tendenzialmente sì. Però a volte entrano in contatto. E allora lì si finisce il bunga bunga. Ma lascia stare il bunga bunga, ecco. Che non sono cose per te, dai. Vabbè, ma il bunga bunga. Cosa? Ma io non so cosa sia. Ecco, nessuno lo sa, quindi rilassati. Insomma, nessuno. Vabbè, dai, solo una ristrettissima elite. E chi lo sa non dice niente, quindi è come se non esistesse. Comunque, se è vero come dicono che c'è una regressione in corso, allora la maestrina tonno prima o poi sarà minorenne, no? Maestrina tonno. Allora potremmo coronare il nostro sogno d'amore. Ecco, la minestrina al tonno. Cosa stai dicendo? Maestrina, non minestrina. Sì, ho capito, il tuo sogno d'amore, perché lei non ne sa niente, è tuo sogno d'amore. No, lei non sa niente. Lei infatti. È fidanzata? È fidanzata con un rugbista. Rugbista. Ah, un rugbista. Un rugbista. Ah, ecco. Sì, e quelli lì stai attento, quelli lì adesso fanno anche i calendari, tutti unti, tutti pompati, nudi. No, quelli bisogna stare attenti. Sì. Però comunque. Cosa? Io sto rugbista l'ho visto anche. Non è. E non mi sembra proprio sto granché. A dire la verità. Sì, vabbè, meglio che un bambinello come te, un po' pingue. Al massimo ti usano come palla. Che piccoletto è pingue! Piccoletto sono piccoletto perché c'ho la mia età. E pingue non è vero. E poi è il pingue dell'infanzia, no? Poi crescendo, dimagrisco. A mio fratello, quello più grande, no? È successa la stessa roba, era paffutello. Poi crescendo si è ammalato, no? E allora è tutto magro. Ma ho capito. No, ma non era magro perché era malato, No. È che era magro di natura. Quindi vuol dire che quando cresco, anch'io, e poi mi ammalo, allora poi divento magro di natura, Vabbè. Non so cosa augurarti. E neanche io. Allora, Albertino, silenzio, che quando parla non vuole essere interrotto. No, silenzio, ma senti che odore. Qui c'è odore di vecchio. Ma no, ma che odore di vecchio. Ma smettila, che comincia. Cari bambini. Ecco. Ognuno di noi sente in fondo al suo spirito una voce celata e profonda. Un sentimento ignoto che ci dà il giudizio intimo sulle azioni che compiamo. Senti che odore. Ma stai zitto. Ma è un odore. Questa è la voce della nostra coscienza. Il verdetto di un tribunale severo che abbiamo in noi e che possiede articoli che non mutano mai perché sono stati creati dalla natura. Tu stai capendo? La voce della coscienza grida sempre in noi, anche quando vorremmo farla tacere. Drago, ma quella roba che c'è in mano? È un crocefisso o un bastone? Non lo so, stai zitto. Taci! Come non lo so? Aia, ma stai. Era lui che parlava, era il bambino Alberto. La coscienza ci condanna in modo da non lasciarci un attimo di conforto o di speranza. Aia, che dolore. Aia. Che bastonata. E tutto questo edificio di dolore e di rimorso è la coscienza che l'ha innalzato in noi. Perché essa è quella che dà ai rei la più terribile delle punizioni. Andiamo. Aia, ma basta. Cari bambini, suore di Nettuno ha finito. Stai zitto. Andate in pace. In pace. Aia. Aspetta un attimo ancora. Che mi lascio la scarpa, aspetta. Aia, Andiamo, andiamo! E adesso andiamo. Aia! Drago! Basta! Appunto, basta, andiamo, no? Lunedì e mandateci un tonno a chiedoasilo@radio24.it. Ma che tonniamo? Chiedo asilo.